Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Bentrovati da Nicoletta, oggi apro Obiettivo Salute con un numero 50. Secondo le ultime ricerche, le persone intorno ai 50-55 anni che adottano uno stile di vita sano ed equilibrato hanno un'alta probabilità di vivere la terza età in condizioni fisiche e mentali ottimali. Questo è uno dei temi di cui si discute al Congresso Mondiale The Future of Science in corso a Venezia. A Obiettivo Salute il professor Elio Riboli, direttore della School of Public Health all'Imperial College di Londra e professore di igiene all'Università Humanitas. Dei risultati che abbiamo pubblicato recentemente dopo 20 anni di seguimento dello studio EPIC ci hanno dato un messaggio molto positivo. Ci hanno indicato che le persone intorno ai 50 anni, 50-55 anni, che adottano uno stile di vita sano, che vuol dire non fumano, consumo d'alcol moderato, un equilibrio dietetico come raccomandato, restano diciamo snelli, hanno un po' di attività fisica e nel caso particolare anche hanno una pressione arteriosa normale, hanno una probabilità di essere vivi a 70-75 anni che è altissima, 94%. Al contrario, le persone che in quel periodo di età seguono un regime alimentare non adeguato, sono in sovrappeso, sono sedentari, fumano e bevono troppo, hanno solo il 60-64% di probabilità di essere vivi sui 70-75 anni. Quindi c'è una grande opportunità, diciamo a mezza età, di fare un cambiamento progressivo verso una vita sana che si traduce in un aumento enorme della probabilità di essere vivi 20-25 30 anni dopo e quindi di iniziare, chiamiamola la terza età, in condizioni fisiche e mentali ottimali. Scendono le temperature e iniziano starnuti e mal di gola. È un classico del cambio di stagione, ma qualcosa si può fare oltre a starnutire. Lavarsi le mani, ad esempio, è sempre un'ottima idea. Ma ci aiutano anche le api. A Obiettivo Salute il dottor Luca Voledo, naturopata. Vi consiglio un rimedio naturale da tenere nel taschino a portata di mano per intervenire ai primi mal di gola, raffreddamenti, perché prima si interviene e meglio è. È la propoli, che non è una pianta come tanti credono, ma un prodotto dell'alveare, cioè prodotto dalle api come il miele, il polline, eccetera, eccetera, e ha un'efficace azione antisettica, antimicrobica, disinfettante, e può essere utilizzata proprio per disinfettare le prime vie aeree. Ci sono tante preparazioni di propoli in compresso, in tintura madre, eccetera, eccetera, ma io suggerisco in questo caso gli spray di propoli contenenti alcol oppure senza alcol per i bambini, che si spruzzano veicolando proprio il liquido dove serve nella gola infiammata. Per saperne di più, l'approfondimento sulle nostre pagine, andate a leggerlo. Fumare peggiora anche l'acne a tutte le età. Se siete interessati a saperne di più, seguite la diretta Facebook in cui vi parlerò di acne, ma anche di psoriasi, di dermatite e soprattutto dei nuovi trattamenti a disposizione. Ospite oggi con noi la dottoressa Adele Sparavigna, dermatologa e presidente dell'Istituto di Ricerca Clinica e Dermatologica. Per oggi, cari amici, è tutto. Noi ci sentiamo domani in diretta con Obiettivo Salute Weekend, sempre alle 12. Adesso la programmazione di Radio 24 continua con Melog, mentre io vi aspetto in diretta Facebook. Un saluto da Nicoletta, vi aspetto.